Seconda entrata, Al, ci sei col microfono? Sì, sì, sì. Ok. Sì. Io vengo a CSA per fare rap, tu vieni a CSA per cercare una tipa che ci sta, ma sei troppo brutto, ti guardo e ti ho distrutto. Ti ho distrutto già, lo sai che guardo e sei fottuto, le tipi più fighe guardano soltanto tufu, tufu, tufu, tufu, tufu, tufu. Seguo il cliché dell'autocelebrazione, ma se mi passo una tipa è giorno di celebrazione. Che poi è bella da lontano e senza luce, nel senso che anni luce lontano dall'essere bella. Alto e voglio in una scopata che non hanno, io se chiavo una in ufficio e diventa l'ufficio scopata dell'anno. Non chiedo se scopa nel culo, ma le metto una scopa nel culo. E se me lo in faccia non vengo a spaccarle la faccia, ma vengo in faccia, faccio pezzi su commissione come una parlamentare d'inchiesta. Fossi PM, mi farei la parlamentare altro che l'inchiesta. Io un disco di musica figa, tu un disco per l'unica figa, non sopporto l'ipocrisia. Hai mai tradito? No, sto cazzo. Sono tra i pochi che può dire di non averlo mai fatto. E me ne vanto, canto in chiave di soltanto. Però mi guardano soltanto. Non ce n'è una che mi guarda come i DVD porno da quando c'è la banda larga. Fumo sostanza, te la soffio tra le labbra, poi dopo due minuti vuoi succhiarmi pure il plasma. Monogamo? Ma manco mi avvicino a quelle mogano fighe. Ma se una di sughero sogna il crudo fix, perché a letto non mi metto in posizione. Chiudo due routine affiliati, quindi non è una cosa seria. Ma tu fai quella domanda quando siamo fuori a cena. Gli occhi da bambi, in un secondo occhi da iena. Hai mai tradito? Ma che cazzo te ne frega? Hey. Spergino la tipa di prima, se la tipa di prima era vergine. Ti vesti con mini vestitini, sempre in tiro, poi la molli facile al primo che in giro. Stai attenta giovane, ogni tipa che è uscita con me ora è una ninfomane. Catene, collari, morsetti, sputi, morsi e schiaffetti. Io non mi siedo a capotavola, ma è capotavola dove mi siedo io. Non mancarmi di rispetto, rischi uno schiaffone. Sono il capo dei papponi, chiamami al pappone. Se mi guardi non ricambio, ma vengo una settimana da te senza preservativi di ricambio. Uso lo stesso, quindi preservati e serviti con tutto me stesso. Specie col cazzo, ma col cazzo se mi fai specie. Do ripetizioni di statistica ed è statistica sui grandi numeri. Se una la spazza ripetizione, paga in natura solo con grandi numeri. Petizione per me che mi farei pure ma dai natura. Nel sesso come al gioco, il contrario di normale. Inattivo al casino, inattivo su PWI. E quando vedo una ragazza mi attivo. Io devoto al sesso orale, passivo a quello anale, ma attivo. Non parlo con le tipe per portarle a letto, ma le porto a letto per poter ci parlare assieme. Causo inutili tensioni perché ho sempre le migliori intenzioni di fare bene, ma sbaglio nell'applicarle. C'è il mio click e non dice no. La mazza, le panne, le buche in una golf. Sesso sport, quante tipe ho castigato. Meglio una serie di ragazze che delle ragazze serie. Meglio una serie di ragazze che delle ragazze serie. Meglio una serie di ragazze. Meglio una serie di ragazze. Meglio una serie di ragazze che delle ragazze serie. Forse il piccolo sporco segreto riguardo al sesso è che non è così sporco. La cosa strana, anche se naturale, è che il sesso può metterci a disagio. Ma se ci impegniamo possiamo superare il disagio. e scoprire che il sesso può essere un conforto. Il sesso può essere persino una cura. Come mai so tutto questo? Perché nessuno comprende l'importanza del sesso quanto uno che non riesce a farne.